Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. In tutta questa faccenda, come si è potuto notare, c'era un personaggio del quale, nonostante la situazione precaria, nessuno pareva preoccuparsi granché. Si trattava di Monsieur Bonacieux, rispettabile martire degli intrighi politici e amorosi che così bene si aggrovigliavano gli uni sugli altri in quel tempo tanto cavalleresco e tanto galante. Gli armigeri che lo avevano arrestato lo condussero difilato alla Bastiglia, dove venne fatto passare tutto tremante dinanzi a un plotone di soldati che caricavano i moschetti. Di lì, introdotto in una galleria semisotterranea, fu preso di mira da quelli che l'avevano portato lì con le ingiurie più grossolane e con i più crudeli maltrattamenti. Dopo una mezz'ora circa comparve un cancelliere a porre fine alle sue torture, ma non alle sue inquietudini, ordinando di condurre Monsieur Bonacieux nella camera degli interrogatori. Due guardie avvicinarono il prigioniero al tavolo e a un cenno del commissario si allontanarono in modo da non sentire. Il commissario incominciò a chiedere a Monsieur Bonacieux il nome e il cognome, l'età, la condizione, il domicilio. L'accusato rispose di chiamarsi Jacques-Michel Bonacieux, di anni 51, ex merciaio, domiciliato in Rue des Fossoyeurs, numero 11. Allora il commissario, invece di continuare a interrogarlo, gli fece un gran discorso sul pericolo che corre un oscuro borghese a occuparsi delle cose pubbliche. Complicò il preambolo con una tirata che esaltava la potenza e gli atti del cardinale, ministro incomparabile, molto al di sopra dei ministri passati, esempio per i ministri futuri, atti e potenza che nessuno controbatteva impunemente. Bonacieux riflette su quanto gli era stato detto, ma, signor commissario, disse timidamente, credetemi che conosco e apprezzo più di qualsiasi altro i meriti dell'incomparabile eminenza dalla quale abbiamo l'onore di essere governati. Davvero? Chiese il commissario in tono dubbioso. Ma se fosse veramente così, come mai sareste alla Bastiglia? Come mai ci sono, o piuttosto perché ci sono, ribatté Bonacieux, ecco ciò che mi è assolutamente impossibile dirvi, visto che io stesso l'ignoro, ma non è certo per aver scontentato il cardinale, perlomeno scientemente. Eppure dovete avere commesso un crimine, giacché qui vi si accusa di alto tradimento. Di alto tradimento? Esclamò Bonacieux spaventato. «Monsieur Bonacieux», disse il commissario guardando l'accusato quasi che i suoi occhietti avessero il potere di leggere fin nel più profondo dei cuori. «Monsieur Bonacieux, avete moglie?» «Sì, signore», rispose il merciaio tremante, sentendo che era lì il punto in cui le faccende stavano per imbrogliarsi, ossia «ne avevo una». «Come? Ne avevate una? Che ne avete fatto se non l'avete più?» «Me l'hanno rapita, signore!» «Ve l'hanno rapita!» disse il commissario. «E sapete chi sia colui che ha compiuto il ratto?» «Sospetto!» disse Bonacieux. «Un tipo alto, bruno, di bell'aspetto, che ha tutta l'aria d'un gran signore. Ci ha seguiti parecchie volte, a quanto mi è parso, quando aspettavo mia moglie davanti alla porticina del Louvre per riaccompagnarla a casa.» Il commissario sembrò leggermente preoccupato e chiese: «E il nome?» «Ah, il nome non ne so niente, ma se lo rincontrassi lo riconoscerei immediatamente, ve lo garantisco, anche fra mille.» «Avete affermato che lo riconoscereste», ribatté il commissario. «Sta bene, basta per oggi. Prima che procediamo oltre, bisogna che qualcuno sia avvertito che conoscete il rapitore di vostra moglie.» «Ma non vi ho detto di conoscerlo!» esclamò disperato Bonacieux. «Anzi, vi ho detto...» «Portate via il prigioniero!» ordinò il commissario alle due guardie. Bonacieux non chiuse occhio. Non che la segreta fosse troppo scomoda, ma perché le sue inquietudini erano troppo forti. A un tratto sentì scorrere i cavistelli e sobbalzò terribilmente. Credeva che venissero a prenderlo per condurlo sul patibolo. Perciò, quando vide comparire, invece del boia che si aspettava, il commissario e il cancelliere della vigilia, fu lì lì per saltare loro al collo. «Le vostre faccende si sono complicate molto da ieri sera, brav'uomo», gli disse il commissario. «Interrogatemi, vi prego. Dov'è vostra moglie, prima di tutto?» «Mia moglie è scappata!» esclamò Bonacieux. «Oh, disgraziata! Signore, se è scappata, la colpa non è mia, ve lo giuro!» «Cosa andavate a fare allora da Monsieur d'Artagnan, vostro vicino, con il quale aveste un lungo colloquio in giornata? Mi promise il suo aiuto, ma subito mi avvidi che mi tradiva. Volete ingannare la giustizia? Monsieur d'Artagnan fece un patto con voi e conseguentemente mise in fuga gli uomini della polizia che avevano arrestato vostra moglie e la sottrasse a ogni ricerca. Monsieur d'Artagnan ha rapito mia moglie? Per fortuna, Monsieur d'Artagnan è nelle nostre mani. E adesso vi metteremo a confronto. Fate entrare Monsieur d'Artagnan, ordinò il commissario alle due guardie. Venne introdotto Athos. Ma, interruppe Bonacieux, non è Monsieur d'Artagnan questo che mi presentate. Come? Non è Monsieur d'Artagnan? Esclamò il commissario. Neanche per sogno, rispose Bonacieux. «Come si chiama il signore?» chiese il commissario. «Non posso dirvelo, non lo conosco». «Il vostro nome?» domandò il commissario. «Athos», rispose il moschettiere. «Ma questo non è un nome di persona, è il nome di una montagna!» esclamò il povero inquirente che incominciava a perdere la testa. «È il mio nome», disse calmo Athos. «Ma avete detto che vi chiamavate D'Artagnan?» «Io?» «Sì, voi. Ossia, mi è stato chiesto, voi siete D'Artagnan?» Io ho risposto, «Credete?» Le guardie hanno affermato che ne erano certi. Non ho voluto contrariarli. D'altronde, potevo ingannarmi. «Ma», esclamò a sua volta Bonacieux, «vi dico, signor commissario, che non c'è da dubitare un secondo. Monsieur d'Artagnan è un giovanotto sui 19-20 anni appena, il signore ne ha meno 30. Monsieur d'Artagnan è nelle guardie di Monsieur de Cessar e il signore è nella compagnia dei moschettieri di Monsieur de Treville. Guardate l'uniforme, signor commissario, guardate l'uniforme». «È vero», mormorò questi, «per dinci, è vero». In quel momento la porta s'aprì violentemente e un messaggero introdotto da uno dei carcerieri della Bastiglia consegnò una lettera al commissario. «Oh, la sciagurata!» esclamò questi. «Come? Che dite? Di chi parlate? Non di mia moglie, spero». «Sì, proprio di lei. Bell'affare il vostro. State sicuro?» «Vi giuro, signor commissario, che siete nel più grave errore. Non so niente di niente di quel che doveva fare mia moglie, che sono completamente estraneo a quello che ha fatto e che se combina delle sciocchezze io la rinnego, la smentisco, la maledico». «Su via», disse Athos al commissario, «se qui non avete più bisogno di me, rimandatemi da qualche parte. È noiosissimo il vostro Monsieur Bonacieux». «Riconducete i prigionieri nelle loro segrete», ordinò il commissario indicando con lo stesso gesto Athos e Bonacieux, «e che siano sorvegliati più strettamente che mai». La sera, verso le 9, mentre si decideva a coricarsi, Bonacieux sentì nel corridoio dei passi che si avvicinarono alla sua cella. L'uscio si aprì, comparvero delle guardie. «Addio, Dio mio!» mormorò il poveretto. «Stavolta sono perduto!» E macchinalmente, senza resistenza, seguì le guardie che venivano a prenderlo. Ripercorse il medesimo corridoio. attraversò un primo cortile, poi un secondo corpo di guardia. Infine alla porta del cortile d'ingresso trovò una carrozza attorniata da quattro guardie a cavallo. Fu fatto salire dentro la carrozza, il sergente gli si pose al fianco, lo sportello fu chiuso a chiave ed entrambi si trovarono in una prigione viaggiante. La carrozza imboccò Rue Saint-Honoré, svoltò in Rue des Bons Enfants e si fermò dinanzi a una porta bassa. Questa si aprì. Due guardie accolsero tra le braccia Bonacieux, sorretto dal sergente. Spinsero il poveretto in un andito, gli fecero salire una scala e lo deposero in un'anticamera. Tutte operazioni che per lui si erano svolte macchinalmente. In quel momento un ufficiale dall'aspetto rassicurante aprì una portiera e, rivolgendosi al prigioniero, «Siete voi che vi chiamate Bonacieux?» chiese. «Sì, signor ufficiale», balbettò il merciaio più morto che vivo, «per servirvi». «Entrate», disse l'ufficiale. E si trasse indietro perché il merciaio potesse passare. Questi obbedì senza ribattere ed entrò nella stanza dove sembrava essere atteso. Era un vasto studio, dalle pareti adorne di armi offensive e difensive, chiuso e soffocato, nel quale era già acceso il fuoco, benché si fosse appena la fine di settembre. Dritto davanti al camino stava un uomo di media statura, dall'aspetto signorile e altezzoso, dagli occhi penetranti, dalla fronte ampia, dalla faccia magra che il pizzo sormontato da un paio di baffi rendeva ancora più lunga. Benché quest'uomo avesse appena 36 o 37 anni, capelli, baffi, pizzo, tendevano a ingrigire. Tranne la spada, egli sembrava in tutto e per tutto un soldato, e gli stivali di bufalo appena appena impolverati denotavano che era montato a cavallo durante la giornata. Quell'uomo era Armand Jean Duplessis, cardinale di Richelieu. Non quale ce lo presentano, debilitato come un vegliardo, sofferente come un martire, il corpo affranto, la voce spenta, affondato in un seggiolone come in una tomba anticipata, vivo unicamente per la forza del proprio genio, in grado di sostenere la lotta con l'Europa soltanto per il continuo sforzo della mente. Ma tale quale era realmente a quel tempo, e cioè abile e galante cavaliere, già debole di corpo ma sorretto da quella forza morale che fece di lui uno degli uomini più straordinari che siano mai esistiti. A prima vista nulla quindi denotava il cardinale, e era impossibile a quelli che non ne conoscessero il viso indovinare davanti a chi si trovassero. Il povero merciaio rimase in piedi sulla porta, mentre gli occhi del personaggio da noi ora descritto si fissavano su di lui e sembravano voler penetrare fino in fondo al suo passato. «Costui sarebbe Bonacieux», chiese dopo un attimo di silenzio. «Sì, monsignore», rispose l'ufficiale. «Bene, datemi quelle carte e lasciateci». L'ufficiale prese sul tavolo le carte indicate, le consegnò a colui che le chiedeva, si inchinò fino a terra e uscì. In capo a 10 minuti di lettura e a 10 secondi di esame, il cardinale si era fatto un'opinione sicura. «Quel tipo lì non ha mai cospirato», mormorò. «Ma non importa. Vediamo. Siete accusato di alto tradimento», disse adagio. «È quello che mi hanno già detto, monsignore», esclamò Bonacieux rivolgendosi al suo interlocutore con il titolo che aveva sentito dall'ufficiale. «Ma vi giuro che non ne sapevo nulla». Il cardinale represse un sorriso. «Avete cospirato insieme a vostra moglie, a Madame de Chevreuse e a Milord, duca di Buckingham. Difatti, monsignore, rispose il merciaio, le ho sentito pronunciare tutti questi nomi. E in quale occasione? Diceva che il cardinal di Richelieu aveva attirato il duca di Buckingham a Parigi per perderlo e perdere la regina insieme con lui. Lei diceva questo, esclamò con violenza il cardinale. Sì, monsignore, ma io le ho detto che aveva torto a fare simili discorsi e che sua eminenza era incapace. Tacete! Siete un imbecille, lo interruppe il cardinale. Proprio quello che mi ha risposto mia moglie, monsignore. Sapete chi abbia rapito vostra moglie? No, monsignore. Però avete dei sospetti. Sì, monsignore, ma questi sospetti pareva che contrariassero il signor commissario e non li ho più. Vostra moglie è fuggita. Lo sapevate? No, monsignore. L'ho saputo dopo che ero in carcere. Grazie al signor commissario, un uomo gentilissimo. Il cardinale le presse un altro sorriso. Allora voi ignorate che ne sia stato di vostra moglie dopo la sua fuga? Assolutamente, monsignore, ma sarà rientrata al Louvre. All'una del mattino non c'era ancora. Ah, mio Dio! Ma che ne è stato di lei allora? Lo sapremo. State tranquillo. Nulla si nasconde al cardinale. Il cardinale sa tutto. In tal caso, monsignore, credete che il cardinale acconsentirà a dirmi che cosa è successo a mia moglie? Forse. Ma prima dovete confessare ciò che sapete circa le relazioni di vostra moglie con Madame de Chevreuse. No, monsignore. Oh, non ne so niente. Non l'ho mai veduta. Quando andavate a prendere vostra moglie al Louvre, tornava direttamente a casa? Quasi mai. Aveva a che fare con certi mercanti di telerie dai quali l'accompagnava. Dove abitano? Uno in Rue Vaugirard, l'altro in Rue de la Harpe. E voi entravate con lei? Mai, monsignore, l'aspettavo alla porta. E quale pretesto vi dava per entrare così, da sola? Nessun pretesto. Mi diceva di aspettare e io aspettavo. Siete un marito compiacente, mio caro Monsieur Bonacieux, disse il cardinale. E mi chiama suo caro Bonacieux, disse fra sé il merciaio. Per pacco, le cose si mettono bene. Il cardinale prese un campanello d'argento, lo agitò, rientrò l'ufficiale. «Andate a chiamarmi Rochefort», disse il cardinale a bassa voce. «Che venga immediatamente, se è tornato». «Il conte è di là», rispose l'ufficiale. «Chiede di parlare subito a vostra eminenza». «A vostra eminenza?» mormorò Bonacieux, il quale sapeva che con tale titolo si designava di solito il cardinale. «A vostra eminenza!» «Venga allora, venga!» disse rapido il cardinale. L'ufficiale si precipitò fuori dalla stanza con quella sveltezza che tutti i servitori di Richelieu ponevano nell'obbedirgli. «A vostra eminenza!» mormorava Bonacieux roteando gli occhi stravolti. Non erano trascorsi 5 secondi dalla scomparsa dell'ufficiale che la porta si aprì ed entrò un nuovo personaggio. «È lui!» gridò Bonacieux. «Chi lui?» chiese il cardinale. «Quello che ha rapito mia moglie!» Il cardinale tornò a suonare il campanello. Riapparve l'ufficiale. «Riconsegnate costui alle sue 2 guardie e che aspetti che io lo richiami alla mia presenza!» «No, monsignore, non è lui!» esclamò Bonacieux. «No, me l'ho sbagliato. È un altro che non gli assomiglia affatto. Il signore è un galantuomo. Portate fuori quest'imbecille!» ordinò il cardinale. L'ufficiale prese per un braccio Bonacieux e lo ricondusse nell'anticamera, dove lo aspettavano le sue 2 guardie.